versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in diretta da una solata e fredda, meno male, Milano, qui alle 16:06 primi e 17 secondi. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, siate in diretta o siate in podcast, come sempre qui della versione di Oscar, Oscar Giannino. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo di ricerca. Dovrebbe essere uno dei drive fondamentali della crescita del nostro paese, che da metà degli anni 90 ha una produttività stagnante, e quindi ricerca e innovazione sono una delle componenti fondamentali della produttività, laddove, come è ovvio, purtroppo si ha una demografia a picco verticale come la nostra, e laddove vi è una vasta permanenza dell'economia non esposta alla concorrenza, perché di fatto lo è pienamente esposto solo il settore tradable, è quello che sta nella catena del valore internazionale, e innanzitutto quindi la manifattura che esporta, ecco, laddove sussistano queste condizioni per crescere nel valore aggiunto e nella produttività, la produttività che riguarda tutti i fattori della produzione, ripeto, non solo il lavoro, non è questione di costo del lavoro nel caso italiano, ma riguarda la produttività, il capitale finanziario e degli intangible, grazie ai quali cresce il valore aggiunto delle lavorazioni e della qualità dell'offerta di beni e servizi. La ricerca dovrebbe essere considerata un volano di crescita fondamentale, insieme al riorientamento del welfare, che nel nostro caso la spesa sociale complessiva per oltre il 70% va agli over 55 anni, sommando pensioni e integrazioni al reddito per chi ha perso lavoro, e quindi niente o quasi per la famiglia, niente o quasi per i giovani, per l'housing sociale, per chi studia e così via, borse di studio e così via. E queste due cose dovrebbero essere quelle fondamentali. Oggi parliamo della ricerca. E perché parliamo della ricerca? Ci sono alcuni spunti che prendo. Parto dal ricordarvi cosa accade nella legge di bilancio. Uno, due. Diamo poi un'occhiata a che cosa c'è oggi su Repubblica a pagina 25, che riguarda la Germania, e poi traiamo degli spunti, e di qui vengono i nostri ospiti, grazie al, almeno per me, bellissimo supplemento che il mercoledì, da un po' di tempo a questa parte, c'è sempre su Repubblica, R-Lab, con un ringraziamento a tutti i colleghi che lo fanno, da Luca Fraioli a Elena Dusi a Giuliano Aluffi, Matteo Marini, Alessandra Carlini e Simone Arcagni, per citare le firme che ci sono sul supplemento di 4 pagine di R-Lab ieri, perché R-Lab ieri ci ha offerto l'occasione di tornare a poter individuare e a chiamare qui, a raccontarci la loro storia, alcuni dei ricercatori, dei tantissimi ricercatori di punta del nostro paese, che sono collocati nel ranking internazionale per citazioni e per densità quindi scientifica delle loro ricerche pubblicate nella parte alta delle graduatorie che riguardano gli scientific journal delle loro specializzazioni, e che fanno i conti con i limiti del nostro paese rispetto alla ricerca. Questo non è un paese, contrariamente a quello che si crede, che ha un problema di qualità della ricerca. Le graduatorie internazionali comparate, appunto, vedono, soprattutto in alcuni settori, la qualità della ricerca italiana assolutamente confermata per prestigio di citazioni e densità di citazioni, e anche per il rapporto tra quantità del capitale investito pubblico e privato e le risultanze eccezionali del merito riconosciuto dagli indicatori dei lavori pubblicati. Il problema è che però noi lesiniamo le risorse, uno, due, abbiamo una università che resta in molti loro in molte fasce, settori abbastanza chiusa al capitale privato. Siamo deboli poi nel technology transfer tra ricerca non solo pura ma anche applicata nei poli di eccellenza universitari e imprese, e per di più ogni tanto commettiamo anche errori. Invece di tentare di una riflessione organica di medio lungo periodo su come lavorare su questi fattori, prendiamo decisioni come quelle assunte per esempio in legge di bilancio. Io ve ne ricordo solo alcuni. Per esempio, cominciamo da il fatto che in credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, stiamo parlando delle imprese in questo caso, è stato tagliato in legge di bilancio 2019 per 300 milioni e questo va di pari passo con il credito d'imposta sulla formazione, che prima era stato tagliato del tutto e poi è stato reinserito ma rivisto con agevolazioni solo del 50% per le piccole imprese, del 40% per le medie ma entro 300.000 euro di stanziamento, del 30% per le grandi con limite di 200.000 euro. Qui c'è il pregiudizio verso le grandi imprese come se non fossero quelle che poi nella formazione investono di più, e invece noi le tagliamo nell'ambito di un taglio comunque generale al credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, e anche il credito d'imposta per il puro investimento in ricerca è stato dimezzato a 10 milioni di bonus massimo annuale per beneficiario, e anche in questo caso la rimodulazione della platea è stata fatta in maniera tale che il credito resta in realtà al 50% solo per spese relative a investimenti che configurino un aumento però delle dotazioni al personale dipendente dall'azienda, perché mentre per il resto scende al 25%, cioè quindi si taglia l'agevolazione a chi per conto dell'impresa viene individuato come il miglior ricercatore possibile. Dopodiché un altro tipo di taglio è quello che viene per le multinazionali, perché la ricerca effettuata su commissione di aziende europee è ammissibile solo se l'attività è svolta direttamente in strutture situate in Italia. Come se le strutture nelle quali si realizza la ricerca non fossero individuate o individuabili da parte delle imprese per l'eccellenza riconosciuta di ciò che serve all'impresa, e quindi l'impresa spende soldi per ricerche che servono a migliorare prodotti, servizi, perimetri organizzativi, modalità gestionali, ma deve invece per forza spendere in Italia. L'autarchia non c'entra niente con l'eccellenza della ricerca, eppure queste sono le misure che stanno nella legge di bilancio per quello che riguarda la catena diretta imprese e investimenti delle imprese nella ricerca. Dall'altra parte, vado a Repubblica di oggi, che cosa avviene invece in Germania? Trovate a pagina 25, titolo Brevetti stranieri, tesoretto della Germania, perché è la sintesi di una ricerca che è stata fatta dall'Institut für Deutsche Wirtschaft sull'enorme contributo che viene dagli stranieri dai ricercatori che da altri paesi quindi svolgono la loro attività in Germania, all'enorme quantità di brevetti che vengono registrati in Germania, e la tendenza è in crescita addirittura del 65%. C'entra anche in questo 65% che fa impressione come aumento l'ondata di capitale umano ben formato alla quale il cancelliere Merkel ha spalancato le porte, con conseguenze poi negative per la politica europea bla bla bla nell'estate di 3 anni fa, ma che hanno immediatamente ulteriormente rafforzato capitale umano ben qualificato e capace quindi di produrre immediatamente all'interno delle strutture di ricerca tedesche un'impennata ulteriore delle idee di innovazioni, brevetti per effetto della loro ricerca. Io richiamo a tutti l'importanza del modello tedesco, non perché sia tedescofilo, ma perché in quel caso una ricerca che è finalizzata alle specializzazioni della manifattura tedesca ha visto nei decenni crescere dei modelli di istituti di ricerca direttamente volti alle specializzazioni dell'economia di quel paese, che secondo me noi dovremmo adottare come modello di riferimento, cioè la somma di istituti come il Fraunhofer Institute, il Max Planck, il Leibniz Institute, sono tutti interfacciati con il mix di specializzazione dell'economia tedesca, hanno fortissima convergenza di risorse finanziarie per investire nella ricerca pubblico e privato. Il Fraunhofer ha il 70% di risorse che vengono dal mondo privato delle imprese, il 30% da stanziamenti federali e dai Länder, cioè pubblici tedeschi. E trovate anche una bellissima intervista di Gian Aurelio Cuniberti, che dirige il Dipartimento di Nanotecnologia all'Università di Dresda e che ha un ranking internazionale molto elevato con tantissime pubblicazioni su riviste internazionali su questo settore. È un fisico genovese che ovviamente da anni trova nella realtà dell'Università di Dresda, del sistema di formazione di ricerca pubblica in Germania, ciò che in Italia non ha trovato da questo punto di vista. Non è uno che disconosce il suo essere italiano, però le peculiarità che racconta di come l'università tedesca ha spalancato le porte non solo al capitale privato AB, ma anche alla catena diretta di trasferimento tecnologico da parte di chi insegna, del ricercatore nello sviluppare idee e nel brevettarle e nel trasferirle anche con una quota di compartecipazione privata al mondo poi del trasferimento della realizzazione in beni e servizi. Beh, in questo secondo me c'è un mix su cui nel caso italiano bisognerebbe riflettere molto a fondo. Allora, con queste premesse, poiché niente in radio è meglio che non parlare di cose generali come faccio io, ma testimonianze di persone che con la loro vita, con il loro impegno, con il loro sforzo e con i risultati del loro sforzo direttamente conoscono 100 miliardi di volte meglio di me il tema di cui parliamo oggi, abbiamo pescato appunto dall'inserto dedicato alla ricerca AirLab di ieri di Repubblica i nostri ospiti, e cominciamo con i primi due. Giorgio Vacchiano, che è un ricercatore di assestamento forestale e selvicoltura all'Università Statale di Milano, grazie di essere con noi. Grazie, buongiorno. Emanuela Girotto, che è una research scientist del Goddard Space Flight Center della NASA, e quindi in questo caso non sta in Italia, per così dire. Grazie di essere con noi, Emanuela. Buongiorno. Allora, io comincio da Vacchiano perché sta qua. 38 anni, leggo da Repubblica di ieri, scelto da Nature come uno degli scienziati emergenti al mondo, appunto ricercatore di questa materia che, leggendola in una detta ai lavori, appare un po' strana, cioè assestamento forestale e selvicoltura all'Università di Milano. Giorgio, come sei diventato ricercatore di questo e perché stai ancora in università italiana? Allora, io sono originario di Torino, mi sono laureato in scienze forestali nel 2003 all'Università di Torino, e poi ho proseguito gli studi sempre riguardo alle foreste e alla loro gestione. Lei diceva che la mia materia è un po' sconosciuta ai più, in realtà le foreste occupano più di un terzo del territorio italiano e ci danno anche degli importanti servizi, quindi capire come gestirle può essere importante e anche molto affascinante. Dopo il dottorato, che ho conseguito sempre all'Università di Torino, mi sono trattenuto con assegni di ricerca per circa una decina di anni, sempre in quell'università. Al termine di tutti questi contratti... La interrompo per fare già una domanda. Se, come lei sarà sicuramente capitato, avesse dovuto paragonare la congruità di quell'assegno di ricerca a analoghi, ma diversamente commisurati in termini finanziari, strumenti di sostegno alla sua attività di ricerca in università o centri di ricerca stranieri, il paragone a che conclusione l'avrebbe portato? Se per stranieri intendiamo, diciamo, gli altri paesi dell'Ocse, in genere gli stipendi per la ricerca in Italia sono tra i più bassi. Ho letto proprio stamattina un sondaggio ancora di qualche anno fa tra appunto i ricercatori italiani che sono poi andati a lavorare all'estero, e tra le varie motivazioni la prima o la seconda era proprio l'entità degli stipendi, che in media è circa il doppio di quello che si percepisce qua in Italia. Esattamente. Quindi diciamo che è rimasto qua non certo perché le condizioni, diciamo, rispetto alla qualità della sua vita fossero superiori, bensì. Certo, beh, intanto diciamo, ho dovuto sviluppare gradualmente la mia carriera scientifica. All'inizio magari non avrei neanche avuto l'opportunità per andare all'estero. L'università che mi ha formato ha lavorato molto bene, mi ha dato sia all'università sia al mio gruppo di ricerca. Il mio supervisore scientifico di allora mi hanno dato tutte le opportunità possibili per sia svolgere ricerca di buon livello, sia aumentare la mia rete di contatti scientifici in Italia e all'estero. E dopodiché, quindi, dopo un certo numero di anni e di studi pubblicati, tra l'altro ero arrivato alla fine dei miei contratti, per cui si trattava di cercare qualcos'altro. In quel momento non c'erano concorsi per posizioni da ricercatore nel mio settore in Italia, e sono andato a lavorare per un paio d'anni per la Commissione Europea come ricercatore analista dati nel centro comune di ricerca che abbiamo in Italia, tra l'altro in provincia di Parese. Sì. Ho lavorato lì un paio d'anni, però diciamo il mio interesse era più rivolto al mondo sia della ricerca sia anche della didattica. L'insegnamento è un'altra delle mie passioni, insomma, mi piace raccontare, comunicare quello che studio, per cui alla prima occasione ho cercato di ritornare nel mondo universitario, ovviamente con una prospettiva un po' più stabile. All'epoca ho partecipato a due concorsi, quindi siamo ormai all'inizio dell'anno scorso, del 2018, uno all'estero, a Zurigo, e poi dopo pochissimo tempo uno in Italia. Appunto, il concorso al Politecnico di Zurigo l'avevo vinto, ho però saputo che si apriva una cattedra, una posizione all'Università di Milano, e ho deciso di partecipare anche a questa, in parte sicuramente anche per motivi personali, valutazioni sulla sede in cui volevo basare la mia vita in quel momento. In parte anche perché per un interesse mio, appunto, come dicevo, le foreste in Italia sono importanti ma un po' misconosciute, sì. E quindi mi sembrava di avere degli spazi in cui mi interessava contribuire, ecco, al bene comune, se vogliamo, no, per quello certo. Che riguarda la gestione del nostro territorio. E quindi ho partecipato e ho vinto a questo concorso per un ricercatore a tempo determinato di tipo B. Non so se avete già nella trasmissione elencato le varie figure, i vari contratti che si muovono nel mondo universitario. Comunque è una posizione che occupo da febbraio e che, se tutto va bene, diciamo, se sarò valutato positivamente, entro un paio d'anni mi consentirà di accedere alla posizione di professore associato. Che per la media, mi tocca dire, dell'età oramai media dei nostri docenti universitari, lei sarà considerato giovane, il che io faccio sempre qualche colpo di tosse, perché nel nostro paese si viene considerati giovani ancora quando si entra all'università come figura della società, 40-42, cioè se si diventa ordinario prima dei 50 anni si è giovanissimo, cioè una roba di fronte alla quale c'è da riflettere, perché secondo me, ecco, negli altri paesi avanzati europei, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, stiamo parlando, cari ascoltatori, di un ritardo medio di corti anagrafiche che va tra i 7 e i 12 anni, ecco, e questo qualche cosa vuol dire, come è evidente, soprattutto in materie nelle quali poi l'evoluzione della ricerca, eccetera, eccetera, ha delle velocità che sono da considerare incorporabili rapidamente, perché sono la qualità anche dell'insegnamento della ricerca all'interno dell'università. Però, insomma, la sua storia dimostra che in Italia si può fare, anche se la sintesi giornalistica impropria, si può fare in Italia, Vacchiano? Si può fare, in realtà mi ritengo molto fortunato rispetto a molti miei colleghi della mia età, ecco, se vogliamo chiamare i giovani, o comunque tra i 30 e i 40 anni. Come lei accennava, i tempi di accesso alle posizioni stabili universitarie, che quindi garantiscono anche una certa tranquillità di vita, che per i giovani è importante. Questi tempi sono molto lunghi attualmente. La legge Gelmini ha stabilito un tempo di precariato massimo di 12 anni, scaduti i quali, diciamo, non si possono più ricoprire posizioni precarie nell'università, ma quindi questo genera il paradosso che ci sono giovani che vengono, tra l'altro, formati con soldi pubblici e con una specializzazione altissima per anni e anni, e poiché i fondi anche dedicati alle assunzioni sono ancora insufficienti, soprattutto rispetto alla perdita di posti che abbiamo avuto dal 2008 in avanti, circa 10.000 posti sono persi all'università italiana, questi giovani spesso rischiano di dover interrompere sì, loro. Cioè la noi abbiamo sostituito a questa proliferazione che non ha eguali in nessun paese occidentale per decenni di figure di precariato che hanno costituito una specie di girone dantesco in termini di migliaia e migliaia di posizioni, e ovviamente giovani che andavano avanti nella specializzazione, nell'acquisizione di titoli eccetera eccetera, nella speranza poi che questa maniera oscena, questo è il mio giudizio da sempre, dello Stato italiano, cambiasse questa metodologia, l'abbiamo sostituita con una decisione che è quella della strage della notte di San Lorenzo verso gli Ugonotti in Francia, che quindi è fatta semplicemente con una specie di falce quantitativa di nostra sorella buona morte corporale, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Mi sbaglio, Vacchiano? No, è corretto. Gli ultimi dati parlano del 48% di tutto il personale accademico che attualmente è in posizioni precarie, quindi sono circa 50.000 strutturati e circa 40.000 precari non strutturati nell'università italiana oggi. Per i quali se non rientrano di quelli dopo i 12 anni, ciao. Allora, che questo sia un criterio, per così dire, serio per valutare le competenze, io lo lascio a voi ascoltatori, a me farà brividire, ma come ovvio può essere che questo dipenda dal fatto che io ho interrotto gli studi troppo presto, però stiamo parlando di capitale umano formato in questo caso, cioè in un paese che ha un gap pazzesco di capitale formato di eccellenza e qualità, e questo purtroppo rimane uno degli aspetti fondamentali della bassa produttività del nostro paese. Allora, invece, con Manuela Girotto, ricominciamo da capo. Come diavolo lei ci è finita nella vita al Goddard Space Flight Center della NASA, e come la formazione in Italia, Università di Pavia, cos'è, ingegnere lei? Io sono ingegnere civile ambientale. A Padova, non a Pavia, a Padova. A Padova. E di lì poi come... Ecco. Sì. Di lì com'è andata? Dove sta invece? Ecco, niente, io ho studiato, ho fatto il mio bachelor, aspetta, come si, non, mi dispiace anche soprattutto se caccerò delle parole in inglese. Sì, oramai lei è madrelingua. Mi dispiace. No, si preoccupa. Io sono madrelingua italiana, però ormai da 12 anni che sì, sono... Sì, da 12 anni è chiaro che fa qualche ha qualche difficoltà a parlare in italiano fluente. In inglese. Vabbè, sì. Non si preoccupi. Io ho fatto l'università a Padova, sia la specialistica che il bachelor, l'undergrad. Però l'ultimo anno della specializzazione a Padova ho vinto una borsa di studio per poter andare a studiare all'estero per un anno. C'erano sì. degli scambi bilaterali sì. con l'Università della California e l'Università di Padova. E niente, ho colto un po' la palla al balzo e sono partita, sono andata a Los Angeles per quindi 9 UCLA mesi. È andata lì. Uno scambio sì, UCLA, sì. Sì, correttamente. Che contrariamente a quello che molti pensano, che l'America sia un'università privata, è un'università pubblica in realtà. Esatto, UCLA è un'università pubblica, e la cosa bella è che l'università pubblica, anche se appunto è pubblica negli Stati Uniti, solitamente è molto costosa. Esattamente. Però tramite questi programmi bilaterali non ho dovuto pagare nulla, tutto era stato pagato dall'Università di Padova, l'Università della California, perché... noi studenti di Padova potevamo andare a studiare un anno all'estero in California, alcuni studenti californiani potevano venire a studiare a Padova. Questi accordi bilaterali, ora come ora, sono stati cancellati. Ecco, per dirne un'altra. E questi accordi bilaterali fanno parte di una politica, cioè l'attrattività di capitale umano, quello migliore, che invece dovrebbe essere considerata una via precipua, prioritaria da battere nel nostro sistema universitario. Il nostro sistema universitario, sia nei segmenti di università che sono alte nel ranking e che sono in grado di attirare capitale umano, non tanto di quello di primissima fascia che ha i soldi, per così dire, dai paesi di provenienza, le famiglie per mandare alla Ivy League americana, Oxford o Cambridge, ma in quelli immediatamente successiva. Per esempio, noi siamo attrattivi se solo ci volgiamo a programmi capaci di attirare questo capitale, sia nell'intenzione poi di trattenerlo in Italia, se questa sarà la loro scelta, perché ne abbiamo un dannato bisogno, sia nel caso in cui tornino nel loro paese, perché in quel caso i legami che si sono stabiliti sono legami su cui poi passa attività di ricerca e anche poi traffici economici. Questo annullamento di programmi come quello che ha consentito a Manuela Girotto di andare a UCLA fa parte di una visione miope del nostro paese. Non so cosa ne pensa lei. No, io sono d'accordo, e se posso aggiungere anche un'altra cosa, poter accogliere studenti stranieri, poter avere delle didattiche che possono essere fatte in inglese, che possono essere appunto welcoming per tutti questi studenti europei, americani, da tutte le parti del mondo, in qualche modo secondo me ingrandisce la visione della nostra ricerca, insomma ci apre un pochino, così non siamo necessariamente chiusi alla ricerca che facciamo in Italia, ma apre un po' le prospettive. Si pensa che noi in legge di bilancio tagliamo gli incentivi se non si fa la ricerca nel nostro paese, ma se l'impresa decide che l'eccellenza che ricerca è in un altro paese europeo, vabbè, questo l'ho detto tutto. La ricerca è fatta di collaborazioni internazionali, quindi deve essere aperta. E niente, no, tornando al discorso di prima, ho fatto questo scambio, e nel momento in cui ero in California il professore che mi seguiva mi ha detto: guarda, io ho della ricerca da fare, vuoi rimanere? E a quel punto dico: cavolo, mi pagava per poter fare ricerca e per poter conseguire un dottorato, ho deciso di rimanere. Allora, riprendiamo di qua, io rubo ancora un po' di minuti perché dobbiamo fare una pausa obbligata per vedere come vanno le cose. Non troppo bene. In borsa, e torniamo con Manuela Girotto. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Allora, eccoci qui tornati in diretta, stiamo parlando di ricerca, lo facciamo con alcuni giovani ricercatori di eccellenza italiana. Abbiamo cominciato con Giorgio Vacchiano, che è con noi, che è ricercatore di assestamento forestale e servicultura all'Università di Milano, tra Zurigo e Milano, ha scelto Milano, e abbiamo iniziato a sentire invece Manuela Girotto che sta al Goddard Space Flight Center della NASA, ingegnere civile a Padova, e poi programma bilaterale con l'Università della California. Chi la segue gli dice: no, stai qua, dai, c'è un programma di ricerca fatto e il dottorato te lo paghiamo, cosa che in Italia non è proprio non è, diciamo, la prassi, vero Girotto, che in Italia qualcuno ti dica: stai qua che ti paghiamo il dottorato? Ma non lo so, perché il dottorato non l'ho fatto in Italia, però tutti i colleghi che hanno fatto il dottorato in Italia, insomma, devono fare i concorsi, devono qualificarsi, devono conoscere già i professori, insomma, un po' più difficile, un po' meno trasparente. Ecco. E lì invece la cosa è nata così e prosegue. È nata così, e a dir la verità non avevo idea di rimanere a fare la ricercatrice, volevo solo fare questi 9 mesi all'estero, poi tornare a casa in Italia, lavorare in Italia, però nel momento in cui fai un'esperienza all'estero un po' il mondo ti si apre e vedi che ci sono altre opportunità che magari da piccola non avevo neanche idea ci potessero essere. Per esempio, non avevo mai immaginato di poter andare a lavorare alla NASA da piccola, perché semplicemente sono cresciuta in campagna, i miei genitori non sono neanche nati all'università e quindi un po' le possibilità non si vedono, insomma. Si diventa davvero open minded, per così dire. Sì, un open minded experience, ecco. Come dicono qui. Cioè, no, io lo dico perché, siccome avverto nel nostro paese un potente vento a ricentrarci entro i nostri confini, perché la globalizzazione e il mondo vengono concepiti da molti ormai come una specie di nemico in agguato ai quali rispondere con frontiere non solo sui flussi di persone, ma di beni, di servizi, basta monete comuni e così via. Sottolineo che le esperienze concrete di chi nel mondo ci si getta, per così dire, sono leggermente da tenere in considerazione. Ecco, questa è la mia singolare opinione. Esatto, ecco. E possono essere esperienze positive. Ecco, direi di sì. E adesso lei si occupa di una roba, cioè usare e integrare i dati che vengono dalla raccolta satellitare per portare una tessera, che sarà quella della sua ricerca personale, al fatto che chi ha dubbi su il riscaldamento climatico e i suoi effetti che hanno complessivamente nel nostro pianeta, non diventi più una questione su cui sia possibile obiettare, ma sia basata su evidenze scientifiche. È così? Esatto, quella è un po' la mia speranza per l'anno che viene, nel 2019, cercare di far capire alla gente che climate change non è una religione. Molte persone dicono: ah, io non ci credo. Ma tu ci credi? Io dico, come puoi dire credere? Cioè, ci sono dei dati, non è una religione, è un po' quella la mia, il mio punto di vista in questo momento. Perché il problema è che l'impronta antropogenica rispetto agli andamenti climatici di lungo periodo da molti viene messa in discussione, dicendo: ma noi da quando abbiamo un qualche dato, non quelli raccolti con le tecniche della scienza, che ohimè non risalgono certo a moltissimo tempo fa, ma anche prima dalle cronache storiche, sappiamo che si sono alternati periodi di fortissimo raffreddamento climatico con altri invece di cicli di anni e anni di fortissimo riscaldamento, e quindi di qui l'obiezione che viene: ma non è che la stiamo dannatamente sopravvalutando l'impronta antropogenica, cioè il CO2 che si deve, eccetera eccetera eccetera. Non è così, perché anche chiaramente sono delle misure che risalgono a migliaia di anni fa, sì. Dai ring tree, dai ice cores per esempio. E ci sono dei dati scientifici che spiegano esattamente questo cambiamento climatico, che coincide esattamente con lo sviluppo del CO2, dell'anidride carbonica nell'atmosfera. I dati sono pubblici. Il problema nostro, che stiamo cominciando a capire noi scienziati, facciamo fatica a comunicare questi dati scientifici. Per questo abbiamo bisogno di voi giornalisti in qualche modo, ma per realtà io nel piccolo lo faccio naturalmente, questo comporta scelte di grande impatto, che sono scelte di trasformazione tecnologica, sono scelte di tipo energetico sulle fonti che si usano, sono scelte sulla circolarità della chiusura del ciclo del trattamento dei rifiuti, cioè sono scelte fondamentali. Le dico solo che io mi aspettavo in questa legislatura che con i 5 Stelle, per esempio, il piano ambiente e clima che dobbiamo presentare in Europa per l'anno prossimo fosse uno dei pilastri fondamentali a cui mettesse mano il Parlamento. Invece non l'ho visto ancora considerare, evidentemente mi sono sbagliato io, ma perché, cari ascoltatori, vedrete che sarà davvero una cosa su cui ciò a cui lavora Manuela Girotto è meglio prenderlo in considerazione, perché lì sballano punti e punti di PIL della nostra economia, scelte fondamentali sul nostro patrimonio vetusto immobiliare, sul nostro parco di vetture vetusto, circolanti, su mettiamo meno delle congestion charge nelle grandi città, e soprattutto in Padania, dove abbiamo un'area record a polveri sottili in tutta Europa, eccetera eccetera. Però tutto questo ha un'evidenza scientifica, perché l'Emanuele Girotto sono appunto alla NASA. Ma lei ha collegamenti ancora con colleghi in Italia? Qualcuno che le dice: beata te, ma sei stata fortunata, se fossi qua niente invece? Ma ci sono ogni volta ancora la ricerca internazionale, quindi ci sono sempre delle conferenze internazionali e meeting internazionali. A questi meeting si conoscono tantissime persone italiane, che chiaramente, anche se sto all'estero, mi piace sempre collegarmi ancora col mio paese natale. Ma lei non ha nostalgia, però? Ho tantissima nostalgia. Non sto parlando dell'Italia, non metto in dubbio che lei abbia nostalgia dell'Italia. Della ricerca. No, io dico dell'ambiente universitario della ricerca italiana, da quello che ha visto negli ultimi 12 anni che sta lì. Ha nostalgia? Ecco, la nostalgia dell'ambiente universitario italiano non ce l'ho. Non mi piace ancora come ora. Lo vedo ancora come un ambiente che dà poco merito alla meritocrazia, un po' sempre più basato su chi conosci, chi sei, molto meno trasparente rispetto al mondo della ricerca che c'è nelle altre parti del mondo. Cioè contano più le cordate universitarie che in realtà davvero gli indicatori oggettivi della qualità della ricerca svolta. Esatto, e poi un'altra cosa che ho potuto discutere in questa grande conferenza che c'era proprio qui a DC a dicembre con dei ricercatori italiani, dicevo, cavolo, sono contenta perché mi dicevano proprio a Padova hanno potuto assumere delle assistant professors finalmente dopo 10 anni che lavoravano lì. Dicevo, beh, ma cavolo, io non ho visto queste openings, non ho visto nessuna advertisement, nessuna, nessuna email di queste openings, di queste posizioni che erano cioè, disponibili. Traduco, non ha visto alcuna procedura di evidenza pubblica per coprirle, esatto. Che forse allora sarebbe la via maestra per reclutare il meglio del meglio già formato. Esatto, e allora dico no, ma questi erano pubblici, erano nella Gazzetta Ufficiale. Ah, ecco, la Gazzetta Ufficiale, sì, esatto. La Gazzetta Ufficiale, una persona può aprirle, chiaramente sono pubblici, però devi chiaramente andare a scovare la posizione che è aperta e tu puoi andare ad applicare. Chiaramente la persona che è lì da 10 anni sa di questa posizione aperta, applica e ha più agevolazione a prendere il posto. Questa cosa secondo me è una cosa che non è buona per il nostro paese, perché però è una cosa che con cui mi confronto spesso con i ricercatori italiani, sono curiosa anche di sapere l'opinione di Giorgio. Il fatto sentiamola che tante subito. Persone dicono ah, ma questa persona è stata con noi, un ricercatore per 10 anni, non è giusto che diamo il posto da professore a una persona che viene dall'estero. Lo posso capire. Questo, però in questo fa modo, pugni esattamente col tema che abbiamo affrontato alla fine con Giorgio Vacchiano, perché è un paese che ha praticato per decenni il precariato di massa nella ricerca universitaria, si trova a dover poi fare i conti con, appunto, l'ho definita la notte di San Lorenzo dei 12 anni, uh-huh. Dopodiché chi è dentro dentro è fuori. Giorgio, lei che come risponde alla domanda di Emanuela? Diciamo, quando mi confronto spesso con i miei colleghi, quando eravamo tutti precari, avevamo un gruppo abbastanza solido che ancora adesso in varie università italiane sta continuando a portare avanti certe istanze. L'idea non è quella di fare delle rivendicazioni di gruppo o corporative a danno di altre categorie, per cui difficilmente troverete dei precari che dicono abbiamo il diritto di essere stabilizzati, esatto, solo perché siamo qui da molto per tempo. Per anzianità, ecco. Esatto, cioè nelle menti di chiunque, penso, lavori nella ricerca, è evidente che la ricerca richiede competenza, il merito, penso, di cui parlava Manuela, richiede apertura di mente, come dicevamo, richiede la capacità di saper fare delle cose, di saper dare un contributo, per cui penso chiunque lavori in questo settore è ben consapevole che chi è più capace, chi è più brillante ha diciamo il diritto di ricoprire e anche l'onere, oltre che l'onore, di ricoprire certe e questo però, Giorgio, significa che dovremmo praticare a livello di massa le procedure di evidenza pubbliche internazionali. Aggiungo, dovremmo batterci perché coloro che ottengono l'ERC nell'ambito dei programmi di ricerca europei di Orizzonte 2020, noi dovremmo batterci perché, come è possibile fare nel sistema della ricerca europeo, venissero a spendere le risorse e a trasferire i loro gruppi di ricerca in Italia, come è del tutto possibile. Diciamo, ci sono un paio di cose, forse di proposte che si potrebbero, esatto, avanzare anche in questo senso. Andiamo. Per non dire solo la parte negativa. No, certo. Secondo me la prima è quella di, in Italia almeno, di una programmazione chiara e trasparente. Sia una programmazione delle assunzioni, quindi al di là degli aumenti di investimenti per incrementare e portare di nuovo il personale universitario a livelli decenti, quindi indirettamente anche combattere il precariato, spesso nei dipartimenti non è chiaro, almeno in alcuni dipartimenti, poi non tutti si muovono nello stesso modo chiaramente, non è chiaro in quali settori di ricerca verranno esatto, impiegati i fondi e i punti organico che vengono assegnati di anno in anno. Intanto spesso perché non è chiaro neanche a livello centrale, noi solo da un anno all'altro sappiamo quanti punti organico, è uscito il 25 settembre scorso, l'effetto dei punti organico, quindi delle assunzioni, nuovo personale universitario per il 2018-2019, quello per il 2019-2020 non abbiamo idea, dovremmo aspettare 12 mesi, quindi si va di 12 mesi in 12 mesi che nella ricerca o per non chi ha deve, senso, diciamo, non ha poco senso, come non c'è l'ha, non c'è dubbio. Anche una programmazione però dei bandi, cioè non ci sono solo i soldi che il Ministero alloca per le assunzioni, ma ci sono anche i contributi per i bandi di ricerca, e anche qui una programmazione un po' più a lungo respiro, un po' più trasparente, non farebbe altro che bene al settore della ricerca italiana. Anche qui sappiamo solo di anno in anno. Sappiamo solo di anno in anno. No, i cicli annuali non sono compatibili con i tempi, gli investimenti e la maturazione necessaria per un progetto di ricerca, quindi neanche poi per capire il merito vero e premiarlo. Allora, intanto io ringrazio e saluto per la loro testimonianza e faccio un enorme bocca al lupo, non hanno bisogno da parte mia, sia a Giorgio Vacchiano che a Manuela Girotto. Adesso andiamo a vedere cosa succede sulle strade e abbiamo poi una terza testimone ospite, Valentina Curcio. A tra poco. La versione di Oscar. Allora, ricerca, siamo partiti da alcuni, secondo me, errori nella legge di bilancio 2019. Siamo partiti dal considerare come in Germania l'attrattività di capitale umano formato di eccellenza faccia ulteriormente innalzare il picco dei brevetti, con la testimonianza che c'è del professor Gian Aurelio Cuniberti, fisico genovesi che sta al Dipartimento di Nanotecnologia dell'Università di Dresda. Abbiamo sentito poi Giorgio Vacchiano, ricercatore che sta in Italia alla Statale di Milano di Assestamento Forestale e Selvicoltura, che ha preferito venire alla Statale di Milano piuttosto che andare al Politecnico di Zurigo, e Manuela Girotto, che è scienziata ricercatrice alla NASA, che con un programma di scambio tra la sua università di Padova, ingegneria civile, e l'università della California, e poi è rimasta lì, hanno pagato il dottorato, sta alla NASA e dice non ho molta nostalgia dell'università italiana. Ma abbiamo sentito anche da Giorgio Vacchiano alcune questioni che andrebbero toccate, cambiate, per consentire di avere il nostro sistema più attrattivo nei confronti del merito. Una terza testimonianza, quella di Valentina Curcio, che è ricercatrice di biofisica all'università di Marsiglia. Grazie di essere con noi, Valentina. Ciao, grazie a voi per avermi chiamato. Allora, tu sei finita all'Università di Marsiglia, da quale percorso di formazione in quale università italiana? Allora, io ho studiato fisica all'Università di Milano in la triennale, e poi durante la magistrale, che ho sempre fatto all'Università di Milano, ho avuto l'opportunità di fare un Erasmus di un anno sempre in Francia, a Bordeaux. Ed effettivamente è stata un po' l'esperienza che anche a me ha aperto il mondo dell'Europa nel mio caso, e mi ha fatto pensare che forse avrei potuto non solo proseguire il mio percorso a Milano, ma aprirmi anche alle possibilità che ci sono all'estero. Soprattutto perché a me interessava un po' la microscopia, che è un ambito che a Milano non è molto sviluppato, e quindi ho pensato, potrei tutto sommato vedere in giro per tutta Europa quali sono i migliori laboratori che offrono questo tipo di ricerca. E una volta che ti sei fatto l'idea su quali fossero i migliori laboratori per il filone di ricerca che ti interessava, gli ostacoli si sono rivelati paragonabili a quelli italiani, inferiori, di tipo diverso? Purtroppo, confrontandomi anche con altri miei amici italiani, partecipare ai bandi di concorso di dottorato in Italia è molto più faticoso e difficile, perché gli esami sono duri da superare, c'è molta competizione, per poi ottenere dei posti che purtroppo sono molto mal pagati, sia dal punto di vista dello stipendio che dal punto di vista delle risorse che uno ha per fare la propria ricerca, mentre all'estero le condizioni di ricerca sono tendenzialmente migliori, e quindi alla fine questo è il motivo per cui ho scelto di puntare sull'estero piuttosto che di rimanere in Italia. L'accoglienza del sistema, del posto in cui stai a Marsiglia, si è rivelata all'altezza delle tue aspettative? Difficoltà di che tipo per diventarne parte integrante ed essere considerata integrata? Ma devo dire che praticamente la maggior parte delle persone che lavorano lì a Marsiglia nel mio laboratorio non sono francesi, cioè gente che viene veramente da ogni parte del mondo, per cui non ci si sente strani, stranieri, anzi l'integrazione è davvero naturale, nel senso che siamo tutti più o meno nella stessa barca. Davvero accolgono persone e attirano persone da ogni parte del mondo. Cosa che purtroppo qua in Italia è molto più difficile. E non c'è una resistenza dei ricercatori francesi a una attrattività dall'estero così elevata come quella che sperimenti quotidianamente? Ma probabilmente un pochino sì, probabilmente un po' di astio da qualche parte, cioè però devo dire che tutto sommato, almeno nel mio laboratorio, può darsi che sia un po' un'isola felice, però il clima è davvero molto aperto e in realtà tutti considerano che queste risorse umane che provengono un po' da tutto il mondo siano in realtà una grossa ricchezza più che un ostacolo. E, può darsi che poi quando si va avanti, si prosegue con la carriera, i posti diminuiscono, per cui riuscire ad ottenere un posto fisso permanente di ricercatore è più difficile. Può darsi che la competizione affini anche un po' più le ostilità. Però per il momento devo dire che non ho mai sentito nessun astio nei miei confronti per il fatto di essere straniera. Ma per proseguire nel filone di interesse che nel filone di ricerca che persegui, l'università italiana avrebbe, e gli enti e istituti di ricerca italiana avrebbero di che soddisfare al livello a cui arriverai poi la tua specializzazione, oppure no? È una domanda che probabilmente mi pongo anche un po' ogni giorno, non saprei dire esattamente, però ne discutevo un po' anche con i miei professori della tesi, e purtroppo i concorsi in Italia per poter ottenere dei posti da ricercatore o da professore, associarsi all'università, non ci sono neanche una volta all'anno, insomma uno deve un po' avere la fortuna di capitare nel posto giusto, al momento giusto, di avere il concorso, non troppo all'inizio della propria carriera, se no non si è ancora abbastanza formati per poter partecipare, ma neanche troppo in là, perché ormai poi si è diventati troppo vecchi, e avere un po' la fortuna di capitare al momento giusto per il concorso giusto. Insomma, una specie di gioco alla roulette. Che... esatto. Purtroppo non è una cosa su cui ci possa fare troppo affidamento. Ma è difficile poter basare la propria carriera su queste premesse. Ah, esatto, anche a me pare proprio di sì, anche perché oltre alla carriera poi ci sono prospettive di vita, per quanto poi sia facile a chi è più immerso nel flusso internazionale cambiare paese eccetera eccetera, ci sono pur sempre poi scelte di vita che uno deve fare, vuole fare, e che certo, obiettivamente tengono conto delle condizioni di contesto per sé e per le persone con cui le si fanno. Nella tua testa a questo momento, la tua evoluzione personale, non solo di ricerca, il ritorno in Italia a che punteggio sta in centesimi? 20%, 50%? Ma nell'ambito della ricerca, se dovessi stare nell'ambito della ricerca, non è altissimo, anche se devo dire che nutro qualche speranza per il progetto che stanno facendo a Milano dello Human Technopole. Non so se ne avete parlato. No, ma no, Human Technopole, diciamo, i nostri ascoltatori la conoscono a IOSA, visto che anche perché Asso Lombarda è stata una delle forze attive grazie alle quali la legacy permanente, cioè l'eredità permanente dell'Expo attraverso Human Technopole, che è un grande progetto di ricerca internazionale che deve mettere insieme il collegamento ricerche più avanzate alla storia genetica anche con la trasformazione in prassi cliniche avanzate, quindi ha una duplice natura, diciamo. È dal 2015 che gli abbiamo fatto due palle così ai nostri ascoltatori, e noi quindi da questo punto di vista ci battiamo. Abbiamo descritto anche la resistenza dell'ambiente accademico italiano al ruolo che era stato affidato all'inizio a IIT di Genova, che è tanto per parlare dei problemi italiani, sì, e così via, sì, sì. E bisogna solo sperare che adesso i tempi non diventino biblici, per così dire, sennò nel frattempo Valenti invecchi e diventi megera, ecco, questo è vero, però ero rimasta qualche anno fa che parlavano di Human Technopole 2040 e già pensavo che avrei fatto prima ad andare in pensione, invece ecco, adesso ho visto che stanno cominciando a fare le prime, sì, assunzioni per posizioni di ricerca, per cui non è più una cosa così astratta come sembrava all'inizio, ecco, però non a caso sarebbe davvero un progetto, quello, un progetto di caratura di strepitosa grossa eccellenza. Però non è un caso, Valentina, che non eravamo d'accordo che gli ascoltatori, che Valentina Curcio indica in un progetto straordinario che rappresenta una tale rottura, per così dire, anche ordinamentale rispetto alla nostra prassi accademica italiana, che ha suscitato forti resistenze, anche fortissime cooperazioni tra le università qua a Milano, ma nel resto del sistema universitario italiano grandi perplessità e resistenze. Non è un caso che sia questa l'indicazione che viene da Valentina, perché significa anche in questo caso, come ha già fatto Giorgio Vacchiano e Manuela Girotto, l'indicazione del non poco, ma forse molto, che politici lungimiranti dovrebbero pensare, dando retta ai migliori dei giovani ricercatori italiani in Italia e all'estero, perché sono loro quelli che possono indicare ciò che è meglio per migliorare attrattività, eccellenza, risultati concreti e trasferimento tecnologico all'economia del nostro paese, a prescindere dalle carte d'identità, ma solo attraendo e formando il meglio del meglio, sia per farlo restare qua che per trasmettere all'estero ciò che poi dall'estero ci torna. Io questo è il mondo che amo. Grazie a Giorgio Bacchiano, Manuela Girotto e Valentina Curcio. Continuate con Radio 24, Focus Economia, e appuntamento come domani mattina alle 8:15, come sempre a 24 mattino.